40, yeah. Talkie della polizia con i miei mai. Ma la chioccio per occhio, mi è arrivata le air. Fai un po' scuola con la moda trap, maca e Sprite. Vale, un'altra domanda però. Tu saresti un rapper? Sei un rapper? Se non mi colo sa che fai. Brignetti è un po' ridicolo ma trapper. O rapper, o gangster, trapstar, o flexer. Sapete schifo fai? Anche tu lo sai. Se non ti guarda più con le preferite guai. Se non ti guardano gli occhi non l'amore mai. Ora se loro negli occhi le porterò a Paris. Yeah. Oppure Dubai, gang gang mi vorrebbe fare tipo le mie Nike. Big bang top 7 volte che mi dice ok. Tantam sopra il tuo cuore ma non frega nessuno. Hey, ma non frega nessuno, vorresti fare fanculo ma lo prendi al culo. Aperitivo con uno poi spediva dal bucio. Non mi fotti. Ma hai. Ma hai. Mai. Ma hai. Mi fotterai.